Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E ben ritrovati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro ai balloon, che riprende le sue trasmissioni dopo la pausa estiva. Riprende proprio laddove ci siamo lasciati. Ci lasciamo con Gianni Rodari e la sua vicenda del Pioniere, e ci ritroviamo con Gianni Rodari che trova il primo lavoro da giornalista nel dopoguerra, che lo porterà fatalmente verso la filastrocca. Filastrocche che sono sicuramente per bambini, ma che a buon intenditore possono leggerle anche gli adulti. E col fascino delle filastrocche sarà aperta anche la seconda parte della trasmissione, che grazie al lavoro, come sempre prezioso, dell'associazione Iucali, andremo a vedere filastrocche di oggi, anche queste fatte per bambini ma da leggere da grandi, grazie a questo libro raccontato da Chiara Ingrao. Tante storie ti voglio narrare, tante storie per giocare, quando non ne so più me le racconti tu. Le storie d'una volta parlavano di fate, di maghi, di streghe, di belle addormentate, ma in giro per il mondo, per chi le sa cercare, ci sono tante storie nuove ancora da inventare. Tante storie ti voglio narrare, tante storie per... Cominciamo allora con questo quaderno di bordo di Gianni Rodari. Sono andato a Milano per lavorare come giornalista. Avevo la qualifica di inviato e ogni seria intenzione di fare di quel lavoro il perno della mia vita. E sono diventato scrittore per bambini per caso. È stata una necessità professionale. Ho cominciato a scrivere per i bambini nel 1948 a Milano. Avevo già 28 anni e lavoravo nella redazione dell'Unità. Il redattore capo era Fidia Gambetti e fu lui a invitarmi a scrivere qualche pezzo allegro, divertente, per il giornale della domenica. Doveva essere una specie di angolo umoristico. Io feci le mie prove e il risultato lì per lì mi parve sconsolante. Le mie storielle parevano piuttosto adatte ai bambini che agli adulti. O forse erano quel tipo di storie che gli adulti leggono e ci si divertono, ma per non confessare che le hanno lette volentieri dicono: ma queste sono storie di bambini. Gambetti e Ulisse, ovvero Davide Laiolo, che era il direttore dell'Unità milanese, decisero che la domenica il giornale avrebbe pubblicato un angolo per i bambini, curato da me. In quell'angolo pubblicai le prime filastrocche, fatte un po' per scherzo. Subito cominciarono a scrivermi mamme e bambini per chiedermene delle altre. Fanne una per il mio bambino che abita in uno scantinato, fanne una per il mio papà che è tranviere. In città non canta il galletto, è il primo tram che ti sveglia nel letto. In tuta azzurra sul primo tramvai vanno in fabbrica gli operai. Secondo tram l'impiegato statale va in ufficio leggendo il giornale. Terzo tram, che confusione, gli scolari non sanno la lezione e tra l'una e l'altra fermata la ripassano di volata. Stavi l'angolo dal grand hotel, grado della metropolitana. Supermercato, gran via vai, autobus e tramvai, e la gente fiumana. Ma in del gran pulpettur, a se salvamo O cenciaiolo che hai nel sacco, una scarpa senza tacco, un vecchio abito da sera con più buchi del groviera, una tromba ormai sfiatata, una pentola sforacchiata, una giacca senza bottoni, ossi e penne di capponi e in fondo, col naso per terra, un ministro della guerra. Facevo queste filastrocche e firmavo Lino Picco. E per un paio d'anni andai avanti così, senza pensarci troppo. Però quel lavoro mi piaceva sempre di più. Tra l'altro, con la scusa che erano cose per bambini, potevo farle come mi piacevano. Potevo dire quel che avevo in mente nella maniera che più mi piaceva. Potevo giocare con la fantasia. Anche Vie Nuove cominciò a pubblicare abbastanza spesso le mie filastrocche. prima che me ne fossi reso ben conto, ne avevo messo insieme un buon numero. Io non le avevo nemmeno ritagliate dal giornale. Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato, come le viole. Un pane così, verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Chili, i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria, un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. Codrillo! Ah, io! Lo mandino anch'io! Mi devo spaventare? Sì, la puoi fare! Voglio sapere se hai mai scritto un romanzo su un coccodrillo! Beh, guarda, un romanzo intero no, però una storia su un coccodrillo l'ho proprio fatta. La vuoi sentire? Certo! Allora, ascolta, c'era una volta un coccodrillo che voleva andare a rischiatutto. Proprio. Prima non lo volevano, dice, ma come? Qui ci vengono professori, direttori d'orchestra, studenti, casalinghe, i coccodrilli. E dice, ma non c'è mica un regolamento che proibisce ai coccodrilli di andare a rischiatutto? E adesso non ve la racconto tutto, vi dico solo come va a finire. Lui va a rischia tutto, vince, ogni volta che viene fuori il rischio mangia un concorrente. Poi quando raddoppia alla fine mangia Mike Buongiorno. Allora Sabina si arrabbia e mangia il coccodrillo. Per molti anni mi sono occupato di errori di ortografia. Prima da scolaro, poi da maestro, poi da fabbricante di giocattoli, se mi è permesso chiamare con questo bel nome le mie precedenti raccolte di filastrocche e favolette. Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo. Se si mettessero insieme le lacrime versate nei 5 continenti per colpa dell'ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell'energia elettrica, ma io trovo che sarebbe un'energia troppo costosa. Il libro, infatti, si presenterà come un piacevole dizionario ad uso dei fanciulli e delle persone colte. La materia si organizza per A, B, C e in subordine per titoli ameni assai, il verbo solitario, nobili per ufficio, il ghiro d'Italia, il serpente bidone, la cugina economica, un ponte di cemento amato nel quale si spiega perché crolla a Roma il ponte Flaminio. Gli errori sono necessari. Utili come il pane e spesso anche belli, per esempio la Torre di Pisa. L'errore è la materia. L'obiettivo è, di volta in volta, svelare l'errore ideologico dietro quello ortografico, che può svelare una realtà sbagliata da correggere, o mostrare la produttività fantastica e vitale dell'errore, la necessità della disubbidienza alle regole se si vuole cambiare il mondo. Italia con la G non è solo una licenza scolastica. C'è davvero gente che grida, anzi scandisce Italia, Italia, con una brutta G in più, cioè con un eccesso di nazionalistico e un tantino fascistico dentro. L'Italia non ha bisogno di una G in più, ma di gente onesta e pulita, e semmai di intelligenti rivoluzionari. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore, capitò nel paese degli uomini a motore. Al posto del cuore avevano un motorino che si spegne la sera e si accende al mattino. Correvano tutto il giorno senza mai fermarsi. Non avevano neanche il tempo di salutarsi. E non scambiando mai né parole né saluti, pian piano i poveretti diventarono muti. Facevano appena brum brum e perepe. E Giovannino disse, questo posto non fa per me. Thank you. comunque ancora tutto intatto il fascino della filastrocca, ma che esce, evade dai castelli e dai reami per venire al giorno d'oggi. Questo ci porta all'intervista che l'equipe di Yucali ha messo insieme con Chiara Ingrao, che parla di Mal di paura. Questo libro di filastrocche con tanto di illustrazioni Giulia Pintus è una filastrocca di oggi che parla ai ragazzini, ma che dovranno ascoltare anche gli adulti. Pier Carlo ha paura del buio ladrone, della banda Bassotti che forza il portone. Invade la casa e distrugge il suo nido. Devo difendermi! A cosa mi affido? Sbarre di ferro, porte blindate, pistole cariche e ben oliate. E intorno al giardino un altissimo muro col filo spienato. Pier Carlo è al sicuro. Viene la notte. Cos'è? C'è un rumore! Qualcosa scricchiola! Rapinatore, ladro, assassino! Chi mai sarà? Spara, Piercarlo! A volontà! I colpi rimbalzano, ahimè! Si è ferito! La gamba, il piede, la luce, il dito! Corre alla porta, ma è programmata! Fino al mattino resta blindata! Aiuto! Aiuto! Fatemi uscire! Il telefono è scarico! Per farsi sentire, strepita, invoca l'infelice Piercarlo. Ma in mezzo alla notte, chi può ascoltarlo? Chi può riuscire a forzare il portone? Ci vorrebbe un esperto. Ci vorrebbe un ladrone! Ernesto ha paura degli accattoni che vivono in strada sopra i cartoni in compagnia di cani pulciosi. Son ladri e bugiardi, parassiti dannosi. Un giorno passeggia e in un angolo cupo c'è un senza tetto col suo cane lupo. Son sporchi entrambi, entrambi arruffati. Ernesto indietreggia con passi affrettati. Barcolla, cade, ahimè, è scivolato sulla cacca del cane e si è impiastricciato. Serve aiuto, signore. Non mi toccare, brutto straccione, mi vuoi derubare? Giunge un signore distinto, elegante, scaccia la bestia e il mendicante. Solleva Ernesto, che belle mani, e col suo fazzoletto profumato di Armani gli ripulisce i pantaloni da quelle orribili tracce marroni. Amico, grazie. Di nulla, mio caro. Ernesto sorride, felice e ignaro che le dita gentili, con amabile imbroglio, gli hanno sfilato di tasca il suo bel portafoglio. Samantha ha paura che il suo bambino possa farsi del male. Il mito Martino, da quando era piccolo, lo sente gridare: non saltare, non correre, potresti cascare. Il ragazzo obbediente non va in bicicletta perché le ruote vanno troppo in fretta. Non gioca a calcio, non sa nuotare. Mamma non vuole, potrebbe affogare. E non ha lividi né cicatrici. Samantha lo guarda con occhi felici. Ma un giorno, no! È sfuggito a mammina e corre in ciamba, che orrenda rovina! Dottore, dottore, sanguina, gli salvi la vita! Il dottore incerotta la gamba ferita, poi scuote la testa. Ci vuole un controllo al cuore e ai nervi e per primo al cervello. Ahimè, che tragedia, mio povero figlio. Mi dia la diagnosi, dottore, un consiglio. Mammicolite ansiosa acuta. È una sindrome grave mal conosciuta. Lei si deve curare, si accomodi qua. Sviene Samantha, può guarire? Chissà. Pierino ha paura del lupo affamato che nel folto del bosco prepara l'agguato. Ma anche il lupo ha paura dell'allegro Pierino, pronto a legarlo, del porcellino, del cacciatore, di Cappuccetto e della mamma in cuffietta nel letto. Gli fan paura le favole antiche sul lupo cattivo, le voci nemiche, i fucili e i veleni, le trappole e i cani e tutti gli oggetti e i progetti umani. Teme l'assedio del duro cemento che alla natura dà pena e tormento, e ha paura dei soldi che divorano tutto e ciò che era bello trasformano in brutto. Il lupo ci guarda, ci ascolta e si chiede: io fuggo da loro, non pesto alcun piede, non voglio papparmi la nonna né il pupo, perché tanta gente ha paura del lupo. Beatrice ha paura di essere brutta e ce la mette davvero tutta. Per farsi più bella, son pronta a pagare. Ha un seno piccino, me lo voglio rifare. Il chirurgo lavora e la spunta in un petto due bei palloncini. A me, viene un sospetto, potranno scoppiare e le labbra gonfiate e palpebre e rughe così tirate. Come si ride se non basta la pelle? Beatrice non ride, le donne belle non devono ridere ma farsi guardare. Così dice Beatrice, poi si fa ritoccare le orecchie, il naso e il fondoschiena, che ora pare una luna piena. Di lisciarsi e gonfiarsi non sarebbe mai stanca, ma ahimè, si è sgonfiato il suo conto in banca. Umberto ha paura degli stranieri, di quelli gialli, di quelli neri, di quelli che vengono da lontano, di quelli che pregano in modo strano. Odia il kebab, robaccia loro, mangia solo spaghetti col pomodoro. Buon cibo italiano, dice l'Umberto, ma un brutto giorno lo sai che ha scoperto. Il pomodoro è un immigrato, dal Sud America venne importato. E forse perfino gli amati spaghetti li inventarono in Cina. Sono sospetti. Sono migranti le rondini di primavera che non si fermano a nessuna frontiera. E il nostro alfabeto, oh, parole infelici, non è nostrano, ha antenati fenici. I numeri arabi saranno terroristi? Per il povero Umberto le giornate son tristi. Grida sconvolto, girando in tondo: io sono italiano! Voglio uscire dal mondo! Avete ascoltato alcune delle storie di Mal di Paura di Chiara Ingrao di Edizioni Corsare e abbiamo al telefono con noi Chiara Ingrao. Buongiorno. Ti chiedo innanzitutto, le paure ci imprigionano, ci rendono loro schiave? Ma le paure sono tante e diverse, quindi è difficile dare un'unica risposta. Ci sono delle paure che sono molto utili e sane. Avere paura di attraversare la strada è una paura utile, perché se no finiremmo schiacciati da una macchina, e così tanti altri esempi che potrei fare. Avere paura di fare cose pericolose. Il problema è che oggi invece siamo schiacciati e soffocati da tante paure non reali o molto esagerate, e che anche a volte vengono utilizzate per poi portarci a fare delle scelte, per esempio contro gli altri, ad avere paura di tante persone, gruppi, e poi dalla paura all'odio il passo è breve, e dall'odio a tante cose brutte il passo è ancora più breve. Vorrei che ci soffermassimo un po' sulla mammicolite acuta. Le mamme hanno mille ansie e paure rispetto ai bimbi, e la prima vittima di tutte queste paure mi sembra sia stata l'autonomia dei bambini e dei ragazzi, che devono essere portati di qua e di là dai genitori, sorvegliati a vista fino a quasi alla maturità, senza autonomia. Che ne pensi? C'è un problema di negata autonomia, di giudizio legata alla mammicolite o forse anche papicolite acuta? Allora, sì, adesso io lì ho parlato delle mamme, il problema riguarda anche i papà, anche se forse un po' meno. Io sono una nonna, quindi non è giusto che giudichi i genitori. So quanto essere genitore è molto più faticoso che essere nonni. Certo, vengo da una generazione, prima come figlia e poi come mamma, che ha fatto un'esperienza molto diversa. Cioè, che ha fatto un'esperienza nella quale noi consideravamo normale, la generazione dei miei genitori in modo diverso dal mio, piano piano abituare i figli a essere autonomi. Quindi, per esempio, non è che noi non avessimo presente il pericolo dei pedofili, esistevano anche allora, però la nostra strategia era di aiutare le nostre bambine e bambini a distinguere, a capire e quindi a difendersi tramite la loro capacità di giudizio. A me inquieta molto il fatto che adesso rispetto a qualsiasi pericolo la tendenza non sia dare ai bambini gli strumenti per difendersi da questo pericolo, ma eliminarlo, cancellarlo sempre di più. Mi è piaciuta molto, per radio non si può far vedere l'immagine che ha scelto la mia illustratrice per la mamma malata di mammicolite, perché la mamma tiene il bambino chiuso dentro una bottiglia di vetro ed è un'immagine in cui mi sono ritrovata molto. In più, oltre a questo, quindi un modo di affrontare le paure reali che secondo me non aiuta molto, perché poi basta che ti distrai un attimo e il bambino è del tutto inerme perché non gli sono stati dati gli strumenti, ma anche un'esagerazione invece delle paure, cioè aver paura che i bambini corrano. Io quando mi trovo al parco e sento questo grido "non correre", io mi sento male, perché se le mie bambine non avessero corso, se i miei nipotini non corressero, io davvero l'avrei portati dal pediatra dicendo "ma che cos'ha questo bambino, ma perché non corre?". Cioè, pensare che sia più grave avere una sbucciatura sul ginocchio o anche un taglio, vogliamo dire anche un taglio che ci vogliono due punti, nessuno è mai morto per due punti, o anche delle cose un po' più gravi, ma che avere più paura di questo che non la paura di un bambino che non esplora la sua fisicità, non esprime la sua allegria, questo lo trovo molto inquietante. Per questo il libro ha il titolo Mal di paura, perché sono paure che secondo me sono un po' malate. Ecco, andiamo a ragionare su un'altra paura malata, le paure che su cui si imperniano intere campagne elettorali, la paura dei poveri, dei senza tetto, la paura degli stranieri. Come si può combattere nei più piccoli la paura dell'emarginazione sociale? Sì, o anche dei Rom, per esempio, ecco, no? Anche. Io credo che questo sia molto difficile, perché fare questo lavoro, per esempio nelle scuole, io so che ci sono alcune insegnanti che mi hanno proposto di fare un lavoro a scuola su questi temi, può aprire dei problemi o una discussione con i genitori dei bambini. Io penso che questo in qualche modo sia necessario, perché avere paura dei poveri, degli stranieri, di chi è in una situazione di disagio, significa poi tradurre la propria paura in fare del male agli altri, perché avere paura dei poveri poi significa emarginarli, no? Significa che tu prendi un intero campo Rom e lo sposti da dentro la città, come è successo a Roma, in una zona periferica quasi deserta, strappi i bambini che andavano a scuola e i loro compagni, che rende impossibile vivere in una situazione che non sia di emarginazione. Quindi io credo che questa sia una cosa molto importante. Non penso che sia tanto difficile aiutare i bambini a superare queste paure, perché sono paure indotte. Bambini, io qui stiamo dicendo bambini, dobbiamo sempre dire bambini e bambine, ovviamente. Certo. Bambini e bambine non sono naturalmente predisposti a diffidare dell'altro, anzi, sono naturalmente predisposti alla socialità, all'incontro. Quindi penso che nel momento in cui si fa un lavoro, io ho provato a usare l'ironia, perché per me è molto importante, la risata è qualcosa di molto importante. Viviamo in tempi così cupi, la paura mette addosso una specie di cappa oscura, no? Quindi la prima cosa è dire: ragazzi, non prendiamoci tanto sul serio, ridiamoci un attimo sopra, no? La storiella di quello che lui ha paura che il mendicante lo derubi, in realtà chi lo deruba è il signore vestito bene. Eh sì. No, chiaramente normalmente non è che ti sfila il portafoglio di tasca, però è anche un po' sei grandi, c'ho anche tante grandi che mi hanno detto che vogliono fare da adulti un lavoro su queste filastrocche. In realtà spesso chi ci deruba magari è la grande finanza, no? Non sono i poveri, ma sono i ricchi, quelli che ci derubano. Però loro sono più difficili da raggiungere e soprattutto su di loro non ci possiamo rifare, non riusciamo a fargli del male. Però la voglia che per affrontare la paura di fare del male a qualcuno dobbiamo capire che poi fa del male anche a noi, ci fa diventare delle persone brutte, ed essere delle brutte persone è un modo in cui non è che poi vivi meglio, ti tieni comunque la paura e vivi peggio. Un minuto per chiudere chiedendoti, sul lupo cattivo, secondo te potrà mai essere rovesciato lo stereotipo sul lupo, a cominciare dalle favole per arrivare ai contadini, a una difesa generalizzata di questa specie animale? Guarda, io stessa poi sono contraddittoria, perché alla mia nipotina piccola piace la fiaba dei tre porcellini e io gioco con lei ai tre porcellini. Però devo dire che, per esempio, mio nipote Tommaso, 10 anni, a cui è dedicato il libro, mi ha detto: la filastrocca che mi piace più di tutte è quella del lupo, perché in realtà i bambini amano molto la natura. Quindi fare delle esperienze nella natura, raccontare, anche semplicemente raccontare i lupi reali, ecco, fargli conoscere un po' la vita dei lupi, parchi naturali, l'amore per l'ambiente nei bambini è molto grande e quindi basta stimolarlo ed esce fuori. E dall'ambiente, a chi vive nell'ambiente, tutti gli esseri viventi, lupo compreso, quindi vive il lupo. Casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare. Un sogno da realizzare, e più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in vela, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo. Laggiù c'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio. Ancora una volta grazie a Maga Rossini e Maga Zebrina di Yucali per questa bella intervista con Chiara Ingraule sul mal di paura, libro di filastrocche per bambini ma anche per adulti. Abbiamo iniziato con Rodari, proprio col lupo finiamo col grande Gianni. Così, ma tanto grande che mi sembra di volare. Se un bambino ascolta la fiaba di Cappuccetto Rosso, gliela racconta la mamma, non avrà paura del lupo, perché c'è lì la mamma che lo difende. Se c'è lì poi il papà, il bambino si ferma e dice: papà, però se c'eri tu al lupo gli davi uno sganassone, saltava via. Ecco, noi diamo al bambino la fiaba e insieme la nostra protezione. Ecco, naturalmente è diverso se il bambino si ascolta la fiaba da solo al disco. Beh, forse può anche succedere che lui, quando arriva il lupo, fermi il disco per paura del lupo e anche per essere lui a dominare il lupo. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di